grigia, fra i treni sudati nella stazione. Come al solito intorno c'era un gran pigia-pigia, quell'aria speciale da grande occasione. Molto importante. Udite la voce dell'altoparlante? Dal marciapiede numero 9 parte il rapido per ogni dove. Oh, che stazione di riguardo. Ti chiede scusa se c'è ritardo. L'accelerato, sbuffando e fischiando, arriverà alle non si sa quando. E come infine è giunto il treno, lei si presenta senza meno. Chiamo stazione, così e così. Tutti quanti scendono qui. Chi non ha casa e non ha letto, si rifugia in sala d'aspetto. Di una panca si accontenta, tra due fagotti si addormenta. Il controllore pensa chissà quel viaggiatore dove anderà, ma lui viaggia solo di giorno, sempre a piedi se ne va attorno. Cammina, cammina, cammina e sono guai. Cammina ma la sua stazione non trova mai. Non trova lavoro e non ha un tetto, di sera torna in sala d'aspetto. Di una panca si accontenta, tra due fagotti si addormenta. Il controllore pensa chissà quel viaggiatore dove anderà, ma lui viaggia solo di giorno, sempre a piedi se ne va attorno. Cammina, cammina, cammina ma sono guai. Cammina e purtroppo un lavoro non trova mai. E cammina, cammina, cammina ma sono guai. E aspetta il suo treno non parte mai. Se un fischio echeggia di prima mattina, lui sogna di essere all'officina. Controllore, non lo svegliare, ancora un poco lascialo sognare, sognare, sognare, sognare. Sulle panchine ci sono operai, soldati vecchine. C'è una furba contadinella che nel cestino ha una gallinella. Una gallina ed un galletto che viaggiano senza biglietto. Seconda classe c'è un signore, è un commesso viaggiatore. Chi ha compagni di viaggio fa la reclame del suo formaggio. prima classe il passeggero e un miliardario forestiero. Italia bella io comperare, quanti dollari costare, ma il ferroviere pronto e cortese, non vendiamo il nostro paese. Ma il ferroviere pronto e cortese, non vendiamo il nostro paese. E anche la gente pronta e cortese, non vendiamo il nostro paese. E anche la gente pronta e cortese, non vendiamo il nostro paese. L'accelerato è un treno di buon cuore, incapace di negare un favore. Si ferma, sapete, a certe stazioncine appena più grandine di un casello, senza nemmeno il passaggio a livello. A volte avrebbe fretta, c'è una nebbia maledetta. L'accelerato è in ritardo, ma quella stazioncina abbandonata che se ne sta a guardare i rapidi schizzar via senza darle un'occhiata. Oh signore, che malinconia! Fermatevi un pochino, ce l'ho anch'io il capo col fischietto, con tre righe sul berretto, e c'è un viaggiatore perfino nella sala d'aspetto. Non posso, non posso, ho molta premura. Sbuffa l'accelerato e fa la grinta dura, però diventa rosso. Che vi dicevo? Si è fermato, ha ceduto. Starò qui solo un minuto. La stazioncina gli fa una festa. Vien fuori il capo col berretto in testa. Vien fuori il bigliettario consultando l'orario. Il viaggiatore sale con un piglio da generale ed il facchino mette su una boria che starebbe benissimo nel libro di storia. Ho visto un signore grasso grasso sul diretto di campo basso. Ho visto un signore grasso grasso, tutti in piedi e lui seduto su un cuscino di velluto, e covava il suo cuscino come un uomo d'oro zecchino, come un uomo d'oro zecchino. Sul diretto basso, ho visto un signore grasso grasso sul diretto di campo basso. Ho visto un signore grasso grasso, tutti in piedi e lui seduto su un cuscino di velluto, e covava il suo cuscino come un uovo d'oro zecchino, come un uovo d'oro zecchino. Grasso basso sul diretto di campo basso, ho visto un signore grasso grasso sul diretto di campo basso. Ho visto un signore grasso grasso, grasso, basso, sul diretto, grasso, basso, sul diretto, sul grasso campo basso. Sul diretto, sul basso, campo basso, sul diretto di campo basso. Non è pesante la valigia dell'emigrante, c'è un po' di terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane e un frutto, e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato, nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire, oltre il mare non vuol venire. Lui è fedele come un cane alla terra che non dà pane. È un piccolo campo lassù, ma il treno corre, corre e non si vede più. È un piccolo campo lassù, ma il treno corre, corre e non si vede più. Non è pesante la valigia dell'emigrante, ma il cuore no, non l'ho portato, nella valigia non c'è entrato. Il treno corre, corre e non si ferma più. Oh, caso proprio strano, ma da giocarci all'otto. Ho visto per il vagone camminare un cappotto, senza piedi, senza mani, se ne andava via di là, un piccolino nella giacca del papà. Cosa canta il soldato soldatino? Dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe ciondoloni, sulla tradotta che parte da Torino. Macchinista, macchinista del vapore, metti l'olio agli stantuffi, della guerra siamo stufi e a casa nostra vogliamo andare. Macchinista, macchinista del vapore, metti l'olio agli stantuffi, per la guerra siamo stufi e a casa nostra vogliamo andare. Cosa canta il soldato soldatino? Dondolando, dondolando gli scarponi, canta, canta, soldatino, canta, canta, cavalli 8, uomini 40. Sedevo sempre lì, al finestrino, con gli occhiali, il mio orso e l'album per gli acquarelli. E mentre correvano i campi al mattino, la mamma indicava tutti i posti più belli. Palma della mano, datteri non fa, sulla pianta del piede chi si arrampicherà, non porta scarpe al tavolo, su quattro piedi sta, il treno non scodinzola, ma la coda ce l'ha, il treno non scodinzola, ma la coda ce l'ha, anche il chiodo ha una testa, però non ci ragiona, la stessa cosa capita a più di una vita a più di una persona. La palma della mano datteri non fa, sulla pianta del piede chi si arrampicherà. Non porta scarpe il tavolo, su quattro piedi sta. Il treno non scodinzola, ma la coda ce l'ha. Il treno non scodinzola, ma la coda ce l'ha. E anche il chiodo ha una testa, però non ci ragiona. La stessa cosa capita a più di una persona. Anche il chiodo ha una testa, però non ci ragiona. La stessa cosa capita a più di una persona. E la stessa cosa capita a più di una persona. Anche il chiodo ha una testa, però non ci ragiona. La stessa cosa capita a più di una persona. La stessa cosa capita a più di una persona. È tutto nero, nero di carbone, ma affacciato a uno sportellino c'è il muso bianco di un vitellino. Un giorno sul diretto Capranica Viterbo salì un uomo con un orecchio acerbo. Non era tanto giovane, anzi era maturato, perché l'orecchio che acerbo era restato. Cambiai allora posto per essere vicino e studiare il fenomeno per benino. Signore, dissi, lei ha una certa età, di quell'orecchio verde cosa se ne fa? Rispose gentilmente, dica pure che sono vecchio, di giovane m'è rimasto solo questo orecchio. Ma è un orecchio bambino e mi serve per capire le voci che grandi non stanno mai a sentire. Ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. Capisco anche i bambini quando dicono cose, che ha un orecchio maturo sembrano misteriose. Vai col piano, Sam. Bravo, Sam. Ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. Capisco anche i bambini quando dicono quelle cose, che ha un orecchio maturo sembrano misteriose. Così mi disse l'uomo con un orecchio acerbo quel giorno sul diretto Capranica Viterbo. Capisco anche i bambini quando dicono cose, che ha un orecchio maturo sembrano misteriose. Dal treno in corsa lungo l'Adriatico, ma forse era il Tirreno, ho visto un paesino tutto nuovo e carino, con le case ben pitturate, le antenne della televisione nell'azzurro ricamate. Un po' in disparte, come il canile di fianco alla casa del padrone, c'era una catapecchia che forse era già vecchia ai tempi di Nerone. Era la casa più brutta del paese. Pareva una casa morta, ma c'era scritto scuola proprio sopra la porta. Io, sulle prime per la fretta, ho letto scuola con la Q. Poi mi sono corretta. Ma adesso mi domando se valeva la pena, se bastava la correzione a fare di quel tugurio la casa dove i bambini diventano uomini, se sanno un poco ogni anno. Questa è la canzone di Tonino l'obbediente, tanto bravo però, di sua testa non fa niente. Se gli dicono cammina, lui salta in piedi e va. Se gli dicono alt, si ferma e fermo sta. Guardate, si è fermato, e ora che fa riposa, aspetta che qualcuno gli comandi qualcosa. Nessuno gli comanda, non sa che fare o dire. Se non gli dicono dormi, non riesce a dormire. È colpa di un dottore, davvero bello stolto. Invece delle tonsille, sapete che gli ha tolto il verbo volere. Con la magra scusa che l'erba d'olio non nasce, non cresce, nemmeno nell'orto verde. Attenzione, faremo un esperimento. Per piacere Tonino, ascoltami un momento. Obbedisci a questa gente e buttati giù dal treno. Avete visto? Correte, salvate quel povero scemo che senza dire buongiorno stava per fare un tuffo. Per fortuna sono qua io e per i capelli lo aggiungo. Tonino, Tonino, ma quando la vuoi capire che bisogna pensare, sì, prima di obbedire. Che bisogna pensare prima di obbedire, che bisogna pensare prima di obbedire, che bisogna pensare prima di obbedire, che bisogna pensare prima di obbedire, che bisogna pensare prima di obbedire. Che bisogna pensare prima di obbedire. Ho domandato a una bambina: chi comanda in casa? Sta zitta e mi guarda. Su, chi comanda da voi, il babbo o la mamma? La bambina mi guarda e non risponde. Dunque me lo dici? Dimmi chi è il padrone. Di nuovo mi guarda perplessa. Non sai cosa vuol dire comandare? Sì che lo sa. Non sai cosa vuol dire padrone? Ma sì che lo sa. E allora? Mi guarda e tace. Mi debbo arrabbiare? O forse è muta la poverina? Ora poi scappa addirittura di corsa in cima al treno e di lassù si volta a mostrarmi la lingua e mi grida ridendo: non comanda nessuno, perché ci vogliamo bene! Nato sotto il segno dei gemelli, dalle stelle sei venuto a me. Con gli occhiali e un album di acquarelli ed un cuore grande più di te. Questo amore durerà per sempre, nessun vento mai lo strapperà, come quelle foglie di novembre che nel tuo quaderno sta incollando già. Ti ho aspettato tanto, amore mio, e oggi che sei qui sono felice io. Soffi pure il vento certo invecchierò, ma senza dubbi e ombre ci sarò per sempre. Nei tuoi occhi porti sempre il sole, ma quando piangi piove forte dentro me. E allora mi consoli con le tue parole, con quei tuoi pensieri grandi più di te. Credi fra noi due, amore mio, non esisterà neanche un breve addio. Niente tradimenti né distanze, noi non siamo foglie di novembre. Dentro ai sogni tuoi vivrò per sempre. Perché noi non siamo foglie di novembre. Credimi, amor mio, senza dubbi e ombre. Ti amerò per sempre. Per sempre. Abbiamo interrotto un'emozione, ma era l'occasione per mangiarci dei cioccolatini in fretta. Adesso fate i bravi, girate la cassetta. We're taking a little break right now and we come back. Carol Kane later tonight. È corta corta e dura poco. che piccola notte scura scura, non si fa in tempo ad avere paura, ma che piccola notte. Sogni e ti porta lontano e voli e sei libero come un gabbiano. La vita è una bella avventura, non avere paura. Dormi la notte, è una breve vacanza nella corsa instancabile della tua infanzia. E se ti trema l'anima e la pelle è perché siamo tutti stelle. io resto sveglio, io non ti abbandono, vorrei essere un babbo più bravo e più buono. Perdona questa mia testa dura e non avere paura. E dormi stanotte, è una notte importante, nessuno è più solo sul tuo piccolo Atlante. E se ti trema l'anima e la pelle è perché siamo tutti stelle. Tenero amore, di questa mia vita sei la parte migliore. E se ti trema l'anima e la pelle, è la mia bocca di cielo che ti dà baci di stelle, di stelle, di stelle. Il mio bambino ha disegnato un sole nero, nero di carbone, appena circondato di qualche raggio arancione. Ho mostrato il disegno a un dottore, ha scosso la testa, ha detto: il poverino, sospetto, è tormentato da un triste pensiero che gli fa vedere tutto, tutto nero. Nel caso migliore, ha un difetto di vista, lo porti da un oculista. Così il medico disse. Io morivo di paura, ma poi, guardando meglio in fondo al foglio, vidi che c'era scritto in piccolo l'eclisse. Ci insegnano maestri, professori, avvocati, muratori, televisori, giornali, cartelli stradali, il sole, i temporali, le stelle. Ci sono lezioni facili e lezioni difficili, brutte, belle e così così. Ci si impara a parlare, a giocare, a dormire, a svegliarsi, a voler bene e perfino ad arrabbiarsi. Ci sono esami in tutti i momenti, ma non ci sono ripetenti. Nessuno può fermarsi a 10 anni, a 15, a 20 e riposare un pochino. Di imparare non si finisce mai, e quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero. Quanto è grosso! Apri gli occhi e anche tu sarai promosso. Mai lo fermerà. accompagnare, da Dora farsi accompagnare. Il treno dei bambini va, portando pace e libertà. Il treno dei bambini va. E non dimentica il Sudafrica, il Nicaragua, il Salvador, la Palestina e anche l'Afghanistan. Alla morte dice no, non dimentica Israele, l'Iran, Libano ed Iraq. Porta a tutti un po' di pace, porta vita e libertà. E il treno dell'amore va, e tutto il mondo salverà. Il treno dell'amore va, e nessuno e niente mai lo fermerà. Il treno dei bambini va. Bambino mio, è così lungo il giorno, il ritmo del lavoro non si arresta, ma tu stasera aspetti il mio ritorno. E scoppia all'improvviso la tua festa, mi corri incontro e la stanchezza vola. Davanti al tuo stupendo disegnino, accanto al bosco una casa sola. La porta è aperta e fuma il suo camino. Bambino mio, entriamo nel disegno, facciamo dentro il bosco un bel sentiero, sugli alberi lasciamo qualche segno, perché non possa perdersi il pensiero. Facciamo in nero i rovi con le more, e qui col verde adesso una panchina, perché ogni tanto si riposi il cuore. La mamma non si vede ma in cucina. Bambino mio, pian piano crescerai. Bambino mio, chissà dove volerai. Bambino mio, sei sempre mio. Bambino, bambino mio, lo sai da dove vieni? Dall'acqua, dalla terra, da lontano. Lo sai che c'era qui quando non c'eri? Un mare d'erba lì, un campo di grano. E al posto di quel grande casamento c'erano i grilli e lucciole la sera. Adesso è questo lago di cemento, che a dirtelo non sembra cosa vera. Bambino mio, che mordi la tua mela, chissà cosa vedrai che non vedremo. Sei la nostra freccia che si incela, dall'arco fermo noi la seguiremo. Bambino mio, chissà dove volerai. Bambino mio, no tu non ti perderai. Bambino mio, sei sempre mio. Bambino, che il volo ti sia dolce, bimbo mio, che adesso sciogli i sogni come vele. Non ti fermare, va, ho pregato Dio. Lo sai che ti vogliamo tanto bene, e sempre più s'allungherà il sentiero, e il bosco crescerà nei tuoi disegni. Ma quando e se vorrai tornare indietro, ritroverai i nostri vecchi segni, quella panchina e i rovi con le more, e accanto al bosco sola in mezzo al prato, ritroverai la casa del tuo cuore, che mille sere fa hai disegnato. Bambino mio, piano piano crescerai. Bambino mio, chissà dove volerai. Bambino mio, sei sempre mio. Bambino, bambino mio, chissà dove volerai. Non ti perderai. Bambino mio, sei sempre mio. Bambino, amore, chissà dove volerai. Amore, no, tu non ti perderai. Bambino mio, bambino mio. accendevano le luci. E io pensavo, le case, il mare di barche piene. Il vento a momenti trasportava le voci e spesso nei sogni c'entrava anche il treno. Io e la mamma da soli, con una valigia. L'abbiamo fatta. È stata una bella sudata, ma ne valeva la pena, perché ci siamo proprio divertiti. Stare insieme, cantare insieme, mangiare, scherzare, arrabbiarsi, far la pace. Cosa c'è di meglio al mondo che lavorare insieme agli altri con passione, lasciandosi trasportare dal treno della vita? Ma ora basta. Dobbiamo presentare ai nostri piccoli ascoltatori tutte le persone, tutti gli amici che hanno viaggiato insieme a noi su questo treno. Perciò cominciamo. Forza, venite a dire i vostri nomi al microfono. Vieni Goffredo. Goffredo Orlandi. Elisa Lombardi. Giulia Moretti. Daniela Bertoli. Giulia Millanta. Daniela Borda. Maria Stefania Scarinzi. E adesso Stefania, dici i nomi dei nostri piccoli lettori e coristi. Bambini, venite qua, dite i vostri nomi. Tommaso Dati. E tu dietro, fratello. Maria Solezzari. Tu. Francesca Borelli. Tu come ti chiami qua? Leonardo Vesacchi. E tu? Elena Giulia Monzetti. Tu ancora Carlotta Palermo. E tu, bella bambina? Caterina Vesacchi. E tu? Eleonora Rossi. E tu? Irene Giovannelli. E tu come ti chiami? Vittorio Bellini. Bene, con questo abbiamo finito. Vi salutano tutti e vi saluto anch'io, Beppe Dati, con tanto tanto affetto. Ci auguriamo che questo libro riesca a farvi sognare come ha fatto sognare noi. Al prossimo. Ah, dimenticavo, una cosa ancora prima di lasciarvi. So che molti di voi si crucciano degli errori che fanno a scuola e magari pensano, se continuiamo a sbagliare vuol dire che non siamo bravi, forse siamo sbagliati anche noi. Ebbene, non fermate il nastro, perché adesso state per ascoltare tutti i nostri errori, quelli che abbiamo fatto in fase di registrazione. Ve li facciamo sentire per dimostrarvi che a questo mondo tutti, ripeto, tutti sbagliano. E non è il caso per così poco di farne un dramma. I nostri errori ci appartengono, fanno parte di noi. Guai a rinnegarli o a nasconderli, se ne avrebbero a male. E poi, chi non sbaglia è perfetto. E chi è perfetto non ha bisogno di nessuno. Invece chi gli errori fa potrà sempre chiedere l'aiuto di un babbo, di una mamma, di un maestro, di un amico, di un amore. Perciò, viva gli errori! E adesso devo proprio lasciarvi. Ciao! O che ci scesci negli orecchi? E dal treno scendevo da un sogno. No. Ancora, ancora, ancora, ancora. Con il cuore un po' triste. Ancora, ancora, ancora, ancora. Se io fossi... Se fossi... Il... Il... padrone del treno. Oh, oh, oh, ah. Ah. io fossi... se io fossi in te, invece, abbasserei il volume della cuffia, perché se no... sordo. Poi il treno finiva in bocca ad una montagna e il mondo si cancellava. Diventava d'un nero più nero di una lavagna. E le facce delle luci. La mamma non si vede ma in cucina. Bambino mio, chissà dove volerai. Bambino mio, chissà dove volerai. Bambino. Che voce sciocca. Mi guarda e tace. Mi debbo arrabbiare? O forse è muta la poverina? Ora poi. Vabbè. Stai attenta ora poi, eh? Ora poi. E evita di fare ora poi, ora poi, ora poi, ora poi. Pronto? T'ho perso? Non comanda nessuno, perché ci vogliamo bene. Non comanda nessuno, perché ci vogliamo bene. Oh, non me ne viene più se vi suggerisci qualcosa. I'm a doctor, not a mechanic. È bello, eh? Sì. Riceve buoni premi? Adesso è proprio allegra. Chi lo prende con cura? Riceve buoni premi per una bella biondatura. Gratis, vi offriamo qui. Errore. Pronti? Perdonateci se abbiamo interrotto un'emozione. Ma era una buona occasione per mangiarci qualche cioccolatino, non in frutta. Allora, ricominciamo da capo. Sì. Stefania, dobbiamo far sapere ai nostri piccoli ascoltatori come si chiamano i bambini del coro. Allora Stefania, adesso però bisognerà dire i nomi di tutto questo coro, di tutto questo coro. Dati tornerà presto in libreria con una nuova storia dal titolo... Ma dillo! Perché no? Non si può, non è un segreto, deve essere una sorpresa! Ma la fine dei film di 007 lo facevano sempre! Intanto tu non sei Sean Connery e questo non è un film! Non sono Sean Connery, non è un film! Ma cosa credi che abbiano visto i bambini mentre ascoltavano? Fugge via alla vita che vuol vivere, che di gioia ci fa piangere, e il treno va collandoci, perché lui sa che gli uomini fanno grandi sogni in galleria, e come una cometa con la scia il treno va dalle Alpi a Trapani, attraversando immobili città, piene di noi e da farà. Ma quando lo prendiamo, bambini ritorniamo, il treno va, ci porta via, in quell'Italia pane, amore e fantasia, un paese povero. tutti noi. Quella giornata al mare dentro gli occhi suoi, l'innocenza della gioventù, che sembrava non finire più. Il treno, la nostalgia di un sogno che ci sfugge via.